Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata monografica questa del cacciatore di libri, naturalmente dedicata al vincitore un po' annunciato del premio Strega 2016, Edoardo Albinati, con il romanzo La scuola cattolica, pubblicato da Rizzoli. Un libro, lo abbiamo ripetuto spesso in questo periodo, decisamente corposo, sono circa 1300 pagine. Il pretesto narrativo è il delitto del Circeo, avvenuto a metà degli anni 70, che scosse profondamente le coscienze degli italiani. Albinati frequentava la stessa scuola cattolica del quartiere borghese Trieste di Roma, frequentata appunto dagli autori di quel delitto. A distanza di 40 anni ha voluto raccontare il contesto sociale e culturale in cui sono cresciuti quegli assassini. Non si vuole, diciamo, spiegare il perché del delitto del Circeo, ma far capire in che ambiente è maturato. Nel libro c'è dunque una trama, ossia le vicende che accadono al protagonista e ad alcuni compagni, soprattutto uno, Arbus. Ci sono poi le parti più saggistiche, dedicate per esempio al tema dell'educazione del maschio negli anni 70, quasi, come dire, costretto ad affermare la propria virilità come aggressività nei confronti delle donne. Insomma, ci sono tante cose in questo libro. Il consiglio, visto che sono 1300 pagine, che apparentemente possono anche spaventare, è di leggerlo un po' a pezzetti, perché si presta benissimo ad essere diviso in macro capitoli, in macro parti. E sentiamo allora come Albinati spiega il perché della genesi del suo romanzo. Perché era quello che potevo fare solo io, raccontare il delitto in quanto tale. Lo hanno fatto anche bene giornalisti, cronisti, storici, insomma è un delitto che ha segnato un'epoca e che io non, su cui non ho nulla da dire in particolare, se non questa coincidenza biografica che vuole che io fossi nella stessa scuola dove studiavano i loro autori, cioè gli autori di quel crimine. E allora ho pensato che ognuno deve fare un po' il suo, uno scrittore scrive quello che non hanno scritto gli altri, cioè appunto le famiglie, la scuola, il quartiere, la vita scolastica in questo istituto religioso maschile, non perché avessi la presunzione che questo avrebbe spiegato meglio il delitto, ma esclusivamente perché i romanzi sono fatti di epoche, di personaggi che sono spariti nel tempo. Credo molto all'idea del romanzo come un deposito di tempi e scene, e luoghi e personaggi che ora non ci sono più, che anche solo pochi anni dopo, cioè non c'è bisogno che si svolga la storia 200-300 anni fa, sono sufficienti come nel mio caso 30 o 40 anni per aver cambiato completamente per esempio quel modo, quell'educazione, quel tipo di famiglia borghese all'interno della quale sono cresciuto io e sono cresciuti loro. Tu dici che in questo romanzo non hai voluto dare una spiegazione di come si è arrivati al delitto del Circeo, però inevitabilmente, per esempio, le parti che mi hanno colpito molto sono le parti in cui tu fai delle riflessioni sull'essere maschio, l'essere adolescente maschio in una scuola cattolica, ma comunque a un certo punto dici che essere maschio, essere uomo è un difetto dal quale non si può uscire, una frase del genere. Mi ha colpito molto questa parte perché da donna ho capito molte cose degli uomini. A cosa ti è servito, se non è stato propedeutico, a spiegare quel delitto? Perché hai voluto indagare in maniera anche molto sociologica, psicologica, la psicologia del maschile, del femminile, della sopraffazione, per poi arrivare al concetto anche di stupro? Credo che la frase che sia che essere maschi è una malattia incurabile. Volevo dirlo perché fino a non tanto tempo fa si è pensati che il maschio fosse l'uomo inteso proprio l'essere umano, l'individuo, cioè si dava per scontato che quando si pensava all'uomo, quello di Leonardo, insomma ovviamente si pensava a un maschio. Poi proprio negli anni in cui si svolge questa storia ha avuto il suo culmine invece un movimento che io reputo il più importante del secolo scorso, cioè il movimento femminista di ridefinizione della figura femminile, del ruolo della donna, della sua importanza, della sua oppressione millenaria, e questo ha, secondo me, creato un enorme vuoto all'interno della riflessione invece sull'essere maschi. E infatti non è un caso che proprio in quegli anni poi sia nata anche una riflessione subito dopo, come risposta e come completamento, diciamo così, del pensiero femminista, un pensiero del maschio, cioè ma i maschi chi sono, visto che non sono l'uomo ma sono il maschio, cioè come, qual è il modello, visto che quello femminile era stato prima identificato e poi criticato, invece quello maschile chiaramente, io ho vissuto proprio, i personaggi di questo libro quasi tutti vivono quell'epoca di passaggio in cui, diciamo così, i vecchi modelli virili, che ancora però erano vigenti, non erano tramontati del tutto, andavano in pezzi. Basti pensare soltanto al luogo in cui questo è stato più evidente, il cinema. Cioè, da quegli eroi, insomma, dai John Wayne, dai Steve McQueen, dagli Humphrey Bogart e compagnia bella, cioè dai Mitchum, questi uomini grandi e grossi e potenti, si è passati poi a quella serie di piccoletti nevrotici che ben conosciamo, Dustin Hoffman, De Niro e compagnia bella. Ecco, quello è proprio plasticamente l'esempio di come esattamente negli anni 70 questa figura virile sia venuta meno, non sostituita da niente da un modello altrettanto chiaro, altrettanto convincente. Quello vecchio non era più adatto, quello nuovo ancora latita, secondo me ancora non è stato trovato. Allora, quando si cresceva noi altri in questa atmosfera, penso che qualcuno, come poi è avvenuto, abbia pensato di restaurare violentemente un modello, diciamo, di prevaricazione, di sopraffazione, come, diciamo così, per secoli o millenni si era pensato che fosse giusto, fosse esercitato dagli uomini sulle donne, per cui questa, non voglio sovrainterpretare un fatto criminale specifico come fu il delitto del Circeo, però sicuramente se inquadrato in una lunga tendenza, diciamo così, è un episodio di quella che io definisco una rappresaglia, cioè nel momento in cui l'emancipazione femminile è all'onda dell'emancipazione femminile al suo culmine, delle, diciamo così, guardie armate o delle minoranze violente ricordano sul corpo di alcune donne, ricordano a tutte le donne che il dominio rimane nelle mani del maschio, ma naturalmente lo fanno in modo criminale, parodistico, addirittura farsesco, e comunque sempre molto doloroso, cosa che però questo periodo di latenza si è inaugurato più o meno in quegli anni e ancora non è terminato. Infatti il fatto di aver frequentato una scuola cattolica o meno, però fatta tutta di maschi erano gli insegnanti, maschi erano i compagni di classe, è stato per te a posteriori un ottimo laboratorio, come dire, di osservazione? Hai guardato il te stesso e i tuoi compagni dell'epoca a distanza di tanti anni? Per esempio, ci sono delle parti dove dici che tutte le manifestazioni anche di tenerezza, di cose, non venivano fatte perché potevano essere fraintese, certo, chiaramente, e tutto ciò che veniva fatto dai maschi non era per farsi vedere dalle femmine, ma per farsi vedere dai loro simili. Come ripensi a quel periodo lì della tua vita? Perché insomma l'hai scritto a distanza di tanti anni, ripercorrendo quelle sensazioni e quelle emozioni. Ma sai, è un po' difficile essere contemporaneamente, diciamo, lo scienziato del laboratorio e al tempo stesso la cavia dell'esperimento, anche se questo è proprio il caso, no? Cioè, quando si ripercorre la propria vita, per quanto lo si faccia criticamente, poi è molto difficile essere totalmente freddi e neutrali. Io ho cercato di esserlo il più possibile perché volevo restituire appunto un'epoca e un modo di vivere, diciamo, svestito di ogni retorica, se questo mai è possibile farlo con le parole. Le parole creano sempre una retorica. Io ho cercato di creare la retorica minimale intorno a questo tema, quindi per esempio lo sdegno, l'orrore che quel delitto provocò, certo, io non è che lo lasci fuori, però cerco di andarci molto con un bisturi il più possibile impassibile, diciamo così, impietoso. Però è vero che ti sei letto anche dei testi, voglio dire, hai studiato molto di psicologia, del rapporto uomo-donna, maschio-femmina. Uno scrittore sì, scrive, ma anche studia, cerca, si gironzola molto spesso a vuoto, poi, perché in realtà il romanzo è anche la ricerca di ciò che di quello, del suo tema, cioè un romanzo racconta anche come poco alla volta si raggiunge ciò che si andava cercando senza sapere esattamente che cosa si stava cercando. Io anche il libro è così lungo per questo, perché come dire, strada facendo ci si imbatte in storie, in personaggi, in considerazioni che non erano previste all'inizio. Io per esempio questa ossessione o attenzione verso il carattere, la natura maschile, non l'avevo affatto preventivata, e non sono poi un sociologo, uno psicologo, appunto mi sono nutrito e servito di infiniti libri sulla materia di persone che lo hanno fatto invece in maniera professionale, però ricavandone una straordinaria identità con quella che era stata poi la mia personale esperienza, cioè quello che leggevo nei saggi dei sociologi americani sopra i maschi. L'hai reso narrativo. Esatto, ma poi corrispondeva in pieno a quella immagine che io do nel libro di questa classe esclusivamente maschile, come di un secchio pieno di granchi che si arrabattano, si combattono un po' vanamente l'uno con l'altro, oppure sembra che si stiano aiutando l'un l'altro per uscire dal secchio, ma poi ricadono sempre su se stessi. Credo che ci sia questa natura agonistica, diciamo così, che ancora era molto forte, credo sia ineliminabile dalla natura maschile, mostri più l'impotenza di chi la esercita che invece la forza. Cioè si è sempre pensato al maschio come a un essere forte, invece proprio il fatto che combatta così duramente per crearsi un'identità mostra che questa identità è fallace, inizialmente proprio è manchevole, c'è qualcosa che gli manca. Cioè il maschio non è quello che è quello che dovrebbe essere e che mai riesce ad essere, per cui questa gara anche, come dire, a sopraffare, a mostrarsi come fanno gli animali quando si gonfiano per combattere. Ecco, questo doversi dimostrare meglio di quello che si è una gara fallimentare, insomma, per tutti. Io lo dico adesso, cioè da fallito, diciamo, quasi sessantenne, posso vedere tutte le tappe, anche gli uomini, anzi, gli uomini di successo poi mostrano ancora di più questa specie di grande vuoto che devono surrogare o riempire con esibizioni di potenza di vario tipo, perché non è che c'è soltanto quella di tipo sessuale o economico, c'è l'auto, c'è la macchina, c'è il potere, l'esercizio del potere. C'è il denaro, il successo, la carriera, essere un donnaiolo, cioè ci sono tanti modi di declinarsi, però quasi sempre mi sembrano queste originate da una perdita iniziale molto forte, da una ricerca, da una costruzione, diciamo così, artificiale di un'identità, come anche prendiamo la figura del padre, di cui adesso molto sulla quale molto si dibatte, e siete a fare. Il padre è una figura che si costruisce, che non è naturale, che non esiste, che deve essere creata a partire da zero. Tant'è che il più famoso padre della storia è, dopo insieme a Geppetto, credo, è appunto il povero Giuseppe, che poi nemmeno è il padre, insomma. Quindi. Cioè il padre non si è, il padre si fa. Allora il maschio è la stessa cosa, sì, sei sessualmente definito come un maschio, però devi fare il maschio oltre che essere. Ecco, tu parli anche molto dell'invidia sottile e inconscia che il maschio ha del fatto di non riuscire a procreare come la femmina, no? E questo è chiaramente, fa parte anche delle teorie femministe degli anni 70, delle indagini dei sociologi. Concordo appieno. E questo era Edoardo Albinati, autore di La scuola cattolica, pubblicato da Rizzoli, che ha vinto lo Strega 2016. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato, trovate queste e le altre puntate su radio24.it. Una buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco.